Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Conquistata la roccaforte ISIS di Deir Zor in Siria e a Gioia Tauro sequestrato un carico della cosiddetta droga del combattente a gestire il traffico, l'ex califfato. Catalogna ha emesso il mandato di arresto per il presidente deposto Puigdemont, che si appella ai catalani: protestate senza violenza. A Torino si va verso la chiusura delle indagini per i fatti di Piazza San Carlo, si parla di 20 avvisi e di ipotesi di omicidio colposo. Sicilia al voto nel fine settimana, ultimi colpi di campagna elettorale, i riflettori puntati a livello nazionale sul dopo urne. Pensioni Calenda contro il Partito Democratico, il rinvio dell'innalzamento dell'età mette a rischio i conti, secondo il ministro. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, la nostra pagina Facebook e la pagina Facebook di Radio 24, dalle quali andiamo in diretta video, quindi se volete ci potete anche vedere e potete anche scriverci durante la diretta video, leggeremo anche quei commenti. In regia oggi Roberta Frisani, Giulia Lauricella in assistenza in redazione. Iniziamo dunque partendo dalla Siria. Le forze siriane hanno riconquistato la città di Deir ez-Zor nell'est del paese, strappandola ai jihadisti dello Stato islamico. Le forze governative e le unità paramilitari irachene hanno lanciato la scorsa settimana l'offensiva per riprendere il controllo della regione di Al-Qaim, dove si troverebbero 1.500 jihadisti dell'ISIS. La coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti ha presentato questa operazione come l'ultima grande battaglia contro il califfato proclamato nel 2014. La regione di Al-Qaim si trova al confine con la Siria e precisamente con la provincia siriana di Deir ez-Zor, ultima roccaforte. 150.000 gli abitanti, di cui 50.000 nell'omonima città, appartenenti a 6 importanti tribù e tutti musulmani sunniti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a Gioia Tauro un maxi sequestro di droga che ha molto a che fare, come sentivate anche nei titoli, con l'ex califfato. Si chiama tramadolo, ma è nota come droga del combattente, visto che è utilizzata sia come eccitante sia per aumentare le capacità di resistenza allo sforzo fisico. Ben 24 milioni di compresse di questo oppiaceo sintetico provenienti dall'India e dirette in Libia sono state individuate e sequestrate nel porto di Gioia Tauro. Le indagini, coordinate dalla sezione antiterrorismo della DDA di Reggio Calabria ed eseguite dalla Guardia di Finanza e dall'ufficio antifrode della Dogana, con la collaborazione della DEA americana e della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga, sono partite dopo un analogo sequestro avvenuto a Genova. La vendita al dettaglio del farmaco sequestrato avrebbe fruttato circa 50 milioni di euro, in quanto ogni pastiglia viene venduta a circa 2 euro. Il traffico di tramadolo finanzierebbe le attività terroristiche in atto in Libia, in Siria e in Iraq. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria. Un sequestro simile, come avete sentito, era avvenuto anche a Genova nei mesi scorsi, tra l'altro, di dimensioni ancora più cospicue. Ne parleremo tra poco con il procuratore capo di Genova e parleremo proprio dei traffici che passano da questo porto. Restiamo sul tema del terrorismo per andare a New York. Tardiva e anomala, così New York Times definisce la rivendicazione dell'ISIS per l'attentato di martedì scorso a New York. Uno dei soldati dello Stato Islamico ha attaccato dei crociati in una strada di New York, si legge sul settimanale online di propaganda jihadista Al-Naba, citato da Site, il centro americano specializzato nel monitoraggio dei siti vicini al califfato. Rivendicazioni del genere solitamente arrivano entro le prime 24 ore attraverso l'agenzia di stampa ufficiale dello Stato Islamico Hamas, fanno notare gli esperti. Ma quando l'attentatore è in carcere non arrivano del tutto. Finora Saipov resta l'unico sospettato, ma gli investigatori continuano a scavare nella sua vita. Sullo sfondo gli interrogativi su se e quanto sapesse di lui l'FBI, dato che era in contatto con persone sotto inchiesta per terrorismo. In particolare un connazionale uzbeko alle nozze del quale era stato invitato 2 anni fa in Florida. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E all'attacco di New York è dedicata l'analisi di oggi, l'analisi del venerdì di Daniele Biacchessi. L'ISIS rivendica l'attacco di New York e in America torna il terrore. Fino ad oggi era la cronaca, le infinite sparatorie e stragi messe in campo dal vicino della porta accanto a far tremare gli americani. Ora la mente torna indietro nel tempo, a quell'11 settembre 2001 che ha cambiato la storia del mondo, perché il killer di New York non è un lupo solitario, cioè uno che agisce sulla base dell'istinto. Saifullah Saipov è effettivamente un soldato dell'ISIS, un uomo inserito da anni nell'organizzazione terroristica, uno che ha pianificato con cura l'attentato seguendo i manuali inviati online dal califfato, che ha scelto proprio il giorno di Halloween per poter uccidere un maggior numero di persone, che ha messo in campo un progetto che doveva includere perfino il ponte di Brooklyn. Restano alcuni interrogativi. Quanti Saipov girano liberamente oggi per gli Stati Uniti? Rappresentano una rete composta da cellule oppure la sommatoria di tante attività clandestine individuali? Cosa conosce di Saipov l'FBI, dato che aveva alcuni contatti con persone sotto inchiesta per terrorismo nel 2015, come un uzbeko alle cui nozze partecipò in Florida? Al di là delle strumentalizzazioni politiche, questo si chiedono oggi gli americani. Siamo alla questione giudiziaria ormai connessa alla vicenda catalana, un punto di oggi che è il punto della giornata nella quale arriva il mandato per Puigdemont. Mario Magarò in diretta a Barcellona. Mario, buongiorno. Ciao Simone, buongiorno. Sì, come dicevi tu, qui oggi tutta l'attenzione è incentrata sulla più che probabile emissione di un ordine di cattura internazionale spiccato dall'Audienza Nazionale nei confronti di Carles Puigdemont e dei quattro consiglieri che sono rimasti con lui in Belgio. C'è stata per la verità nelle ultime ore un po' di confusione, perché l'avvocato Paul Beckert, l'avvocato belga di Puigdemont, aveva confermato alla televisione belga che l'ordine era già stato emesso, ma fonti giudiziarie madrilene da Madrid hanno detto che ciò non è ancora avvenuto, ma dovrebbe avvenire nelle prossime ore. Intanto l'ex consigliere Santivila ha lasciato poco fa il carcere madrileno dove ha trascorso la notte, avendo pagato la cauzione da 50.000 euro. Ricordiamo che Santivila era l'unico degli ex consiglieri del governo catalano a cui era stata concessa questa possibilità, ovvero evitare il carcere sotto pagamento di una cauzione. Intanto il comune di Barcellona ed il sindaco Ada Colau hanno ribadito di considerare il governo di Carles Puigdemont l'unico legittimo della Catalogna, richiedendo l'immediato rilascio di tutti gli ex consiglieri. Ed oggi alle 5 del pomeriggio l'Assemblea Nazionale Catalana ed Òmnium Culturale, le due principali associazioni indipendentiste catalane, forniranno dettagli sulla manifestazione convocata per il 12 novembre per protestare contro l'operato della giustizia spagnola. Per il momento da Barcellona è tutto. Grazie dunque a Mario Magarò per questo aggiornamento. Veniamo a Torino, dove stanno... No, non andiamo a Torino per parlare appunto di quello che avete sentito nei titoli, ossia le indiscrezioni che stanno circolando in queste ore sulla chiusura delle indagini per i fatti di Piazza San Carlo, la ricorderete ovviamente, la ressa per la finale di Champions League, nella quale morì anche una persona. Siamo a questo punto in grado di collegarci con Torino, con Marco Panzarella, che si trova in procura, per cercare di fare un punto su tutte queste indiscrezioni che sono circolate. Che cosa sappiamo? Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Sembra entrare nel vivo l'inchiesta sugli incidenti in Piazza San Carlo, dove lo scorso 3 giugno, durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, probabilmente in seguito a un'esplosione, si scatenò il panico provocando la morte di Erika Pioletti e il ferimento di oltre 1.500 persone. Nel mirino degli inquirenti ci sarebbero funzionari e dirigenti che presero parte all'organizzazione dell'evento. Al momento gli indagati restano due, entrambi dell'ente Turismo Torino, a cui il comune aveva affidato la gestione della serata. Diversa invece la posizione della sindaca Chiara Appendino, iscritta nel registro degli indagati solo perché querelata da alcuni cittadini rimasti feriti, un atto dovuto, aveva spiegato il procuratore capo Armando Spataro, che coordina l'inchiesta affidata ai PM Rinaudo e Facileo. Ad oggi i reati ipotizzati sono omicidio colposo e lesioni personali plurime. La sensazione però è che già all'inizio della prossima settimana l'inchiesta potrebbe avere un'accelerata decisiva. Fino ad allora, dai corridoi del Palazzo di Giustizia, soltanto no comment. Per adesso da Torino è tutto, a voi la linea. E grazie a Marco Panzarella per questo aggiornamento. Siamo al prevoto siciliano, fine settimana appunto dedicato alle elezioni in Sicilia. La proiezione è ovviamente nazionale, soprattutto in termini di alleanze, di misura delle forze. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno, arriva a tardanotte il patto dell'arancino, si chiama così, nel centrodestra, Simone. Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi si incontrano a Catania per sancire l'accordo per le regionali in Sicilia, ma soprattutto per le prossime elezioni politiche. Berlusconi poi si affretta a negare tensioni, il centrodestra è sempre stato in corsa, anche se c'è chi specula su eventuali divisioni che non ci sono mai state, dice l'ex cavaliere. Abbiamo un programma su cui mettere una parola definitiva, accettato da tutti. Nel Movimento 5 Stelle invece il candidato Giancarlo Cancellari risponde proprio a Berlusconi, che ieri l'aveva attaccato: io non ho mai amministrato nemmeno un condominio, ma chi lo ha fatto per 20 anni ha ridotto la Sicilia in macerie. Il 5 novembre sarà la resa dei conti, con una scelta secca: o noi o loro, il futuro contro il passato. Ricordiamo poi che Luigi Di Maio ha sfidato Matteo Renzi in un confronto televisivo per martedì e quindi che Renzi ha accettato. Nel centrosinistra invece il ministro della giustizia Andrea Orlando lancia l'idea che dopo il voto in Sicilia bisogna ragionare di coalizione e di leadership, ma assicura anche che non c'è nessun patto con Berlusconi. A te, Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito, che poi si dice arancino o arancina, che questa cosa non l'ho mai capita. Abbiamo Giulia Lauricella dall'altra parte del vetro, che è siciliana e forse più tardi ci può illuminare, ma se volete scriveteci anche voi. Si diceva il patto dell'arancino o dell'arancina, ma anche il fatto che la vittoria potrebbe essere per l'astensione. Chi vincerà le elezioni siciliane? La domanda corre di bocca in bocca, nei bar, negli uffici, nelle strade. I candidati in corsa per la poltrona di governatore sono 5, ma un partito vincente, almeno secondo i sondaggi, già c'è. Il partito degli astensionisti, con oltre la metà degli oltre 4 milioni e 600 mila siciliani aventi diritto al voto, pronti a rimanere a casa domenica. Un segnale preciso per la politica praticata, che non si è affatto risparmiata in questi giorni di campagna elettorale per l'elezione del presidente della regione di 70 deputati. In Sicilia, per un capriccioso sistema elettorale, vince chi prende più voti, ma non è detto che riesca poi ad avere la maggioranza per governare in quello che ancora si chiama Parlamento. Una sfida complicatissima in una terra che è all'anno zero, poggiata su un crinale dopo gli anni di governo destrutturante di Rosario Crocetta, condizionato anche dalle maggioranze variabili in un'assemblea in cui i cambi di casacca sono diventati una costante. La sfida del prossimo presidente è di azzeccare le mosse per dare risposte a un sistema economico che arranca nonostante le grandi potenzialità in settori come l'agroalimentare di qualità, il turismo, i beni culturali, l'energia, il sistema della tecnologia d'avanguardia e non solo. Una scelta giusta può far risalire l'isola dal punto in cui si trova, una sbagliata può affossarla definitivamente, perché a tutti è ormai chiaro: sta passando l'ultimo treno per la modernizzazione. Perderlo vuol dire rimanere ultimi tra gli ultimi, con un danno enorme non solo per i siciliani. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Intanto state sciogliendo i miei dubbi, lo ha fatto la collega dall'altra parte del vetro dicendo che arancino in una parte della Sicilia, arancina in un'altra. Ci state scrivendo: arancino femminile a Messina, sono catanese, si chiama arancino nella Sicilia orientale, non ci capisco più niente. Non è così rilevante, però è un elemento interessante di divisione territoriale. Si vota in un altro luogo importante o quantomeno simbolico, che è Ostia. 9 candidati alla presidenza del municipio per oltre 200.000 abitanti, una galassia di liste civiche e movimenti, da Casa Pound al Prete Rosso, che potrebbero rosicchiare voti trasversali, e l'incubo dell'astensionismo dato al di sopra del 50%. Ostia si presenta così in vista del voto di domenica, a 2 anni dallo scioglimento per mafia, un test di valenza nazionale, ma anche primo banco di prova per Virginia Raggi. L'allora candidata sindaca nel 2016 strappò in questa porzione di Roma, grande quanto Milano, il 44%, ma l'obiettivo oggi sembra molto lontano. Raggi si spenderà comunque fino all'ultimo. Oggi sarà il comizio di chiusura al fianco di Giuliana Di Pillo, candidata 5 Stelle, che durante il commissariamento è stata delegata per il litorale. Dall'altro lato il centrodestra, qui di nuovo unito, contrariamente a quanto avvenuto nella corsa al Campidoglio, dato in aumento. In caduta libera invece il PD, che ha affidato ad Atos De Luca, ambientalista ed ex senatore, il compito di risollevare le sorti del partito nel municipio, ma durante la campagna elettorale sul litorale romano sono stati pochi vertici del partito a farsi vedere, forse più indaffarati con il voto siciliano. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E al centro dell'attenzione politica resta anche il tema delle pensioni e dell'innalzamento dell'età pensionabile. Il Partito Democratico sbaglia. Rinviare l'innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni è un errore che rischia di mettere i conti a rischio. Il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, critica così la scelta del PD di presentare in Senato un emendamento alla legge di bilancio per rinviare a giugno la decisione del governo sull'adeguamento automatico dell'età pensionabile all'aspettativa di vita. Un meccanismo che, secondo la legge, alza la soglia di uscita dal lavoro a 67 anni dal 1 gennaio 2019 e prevede comunque un via libera del governo. Calenda intravede nella decisione del PD anche un errore di metodo perché, spiega il ministro in un'intervista al Corriere della Sera, si decide di non decidere e si rimanda tutto a dopo le elezioni, con un alto rischio che tutto ciò venga letto dai cittadini come una manovra elettorale. Governo e sindacati intanto hanno ora 10 giorni di tempo per individuare le categorie di lavori usuranti che potrebbero essere escluse dall'aumento a 67 anni dell'età pensionabile. Un'intesa questa raggiunta ieri tra governo e sindacati a Palazzo Chigi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore Roma. Prima di sentire cosa succede sulle strade, prima del nostro Giro d'Italia, andiamo a parlare di sport e di calcio in particolare, perché è stata una settimana molto intensa, due serate di Champions, una giornata e serata di Europa League, il campionato che ricomincia praticamente subito. Carlo Genta, ciao, buongiorno. Senza respiro, no, mio caro Spezia, senza respiro. Abbiamo vissuto una settimana di coppe europee interessante, con la tua Roma che ha fatto molto bene, con il Napoli meno bene, con il City, con la Juventus meno bene, però un pareggio utile a Lisbona. Ieri sera l'Europa League che ha riproposto il barboso tema Milan, ormai che vale tutti i giorni, tema Milan e tema Montella, 0-0 in casa della non irresistibile, facciamo così, AEK Atene, brutta partita dei rossoneri, qualificazione rinviata ma non a rischio, ci mancherebbe altro in un girone che propone oltre i greci l'Austria Vienna e il Rijeka. Benissimo invece la Lazio, nona vittoria consecutiva, non era mai successo, era squadra del momento certamente. Ieri ha vinto praticamente senza fare un tiro in porta con il Nizza 1-0 in casa e ha blindato la qualificazione, in questo caso sì matematica, con due turni di anticipo sulla conclusione del raggruppamento. L'Atalanta ha strappato un pareggio 1-1 non così soddisfacente sul campo d'Apollon, ma in un giorno molto più difficile i nerazzurri sono messi piuttosto bene. E adesso ci tuffiamo nel campionato. Domani c'è il derby di Genova con una Sampdoria che sta benissimo, un Genoa che sta molto meno bene, la prova di appello per Juric. Domani anche Bologna-Crotone, che non è certamente una gara di cartello. E poi domenica all'ora di pranzo ci sarà il tutto esaurito quasi a San Siro per Inter Torino, grande fiducia da parte dei nerazzurri e del popolo nerazzurro. Tutte le big giocano domenica, il Napoli a Verona con il Chievo, la Roma a Firenze con la Fiorentina, impegno non semplicissimo, mentre dovrebbe essere molto più semplice la partita della Juventus in casa con il Benevento. La Lazio riceve l'Udinese e poi c'è Sassuolo-Milan in posticipo domenica sera. Vediamo lì come va per il solito Montella. Sì, per la telenovela Montella. Bravo. Grazie. Bravo. Grazie a Carlo Genta, che ritroviamo alle 14 in tutti i convocati. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi iniziamo il nostro Giro d'Italia. Qualcosa vi avevo già accennato poco fa quando vi abbiamo fatto sentire il servizio su Gioia Tauro. A Gioia Tauro c'è stato questo maxi sequestro di una droga che è definita la droga del combattente, perché viene utilizzata dai terroristi, e è una fonte di finanziamento anche per l'ISIS. Un sequestro di dimensione ancora maggiore era avvenuto a Genova nei mesi scorsi. Di questo parleremo, e non solo di questo, parleremo tra poco col procuratore capo di Genova. Traffico. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, e sempre la nostra diretta video sulla pagina Facebook di Radio 24 e sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Potete commentare anche là. Grazie a Marco che ci rende il venerdì migliore, che proprio sulla pagina Facebook dice: siete tutti bravi, siete uno splendido team, perché sapete, dato che passiamo le nostre giornate in onda con insulti da varie parti per come trattiamo gli argomenti e per come ritenete erroneamente che prendiamo una parte politica, ogni tanto qualcuno ci dice: beh ragazzi, state facendo un buon lavoro, ci fa piacere, specie alla vigilia del fine settimana. Veniamo alla cronaca che ci racconta di questo sequestro di questa mattina a Gioia Tauro, nel porto di Gioia Tauro, il sequestro di container all'interno del quale c'era questa droga che viene definita droga del combattente. Erano 24 milioni di compresse di tramadolo che aveva un valore, per così dire, di 50 milioni di euro. Il carico proveniva dall'India ed era diretto alla Libia ed è presumibilmente un traffico gestito dall'ISIS. Non è il primo caso di questo genere, perché un sequestro simile era avvenuto nel maggio scorso nel porto di Genova. La rotta era sostanzialmente la stessa. Siamo in linea col procuratore di Genova, Francesco Cozzi. Procuratore, buongiorno, benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, prego. A questo punto, vedendo i due casi, procuratore, sembra che sia una sorta di rotta consolidata quella che fa parte dall'India. Poi non so quale sia esattamente il luogo di provenienza di questa droga, ma possiamo immaginare che, essendo un oppiaceo, Afghanistan, Pakistan e quelle aree là, passa all'Italia e poi arriva in Libia. Immagino che sia una rotta consolidata a questo punto. Sì. Non conosco esattamente i dettagli dell'operazione di stamattina, se non attraverso le parole che ha detto poco fa la lei. Nel 2016, in tre distinte operazioni, del gennaio 2016, del giugno 2016 e poi ancora della fine di giugno 2016, sono stati sequestrati in container che trasportavano altri tipi di merce, cioè o stoffe o tessuti, oppure di nuovo tessuti o cosmetici addirittura, sono state rinvenute scatole in quantità notevole, ciascuna contenenti 500 o 800 confezioni di tramadolo cloridrato, per un totale di 37 milioni 500 mila pastiglie. Si trattava di un derivato opioide che, per la verità, può essere venduto in Italia, far data dal 12/7/2006, con prescrizione medica non ripetibile, mentre in precedenza era considerato stupefacente. Questi farmaci provenivano dall'India o dalla Sri Lanka, il primo e gli altri due rispettivamente, ed erano in transito a Genova con destinazione finale Libia. Siccome in quei territori è equiparata questa sostanza agli stupefacenti, doveva necessariamente essere occultata per non essere scoperta da chi poteva fare i controlli all'arrivo in Libia. Certamente. Si parla di droga, diciamo, del combattente, perché si ritiene che fosse collegata all'aspetto fosse legata ai gruppi estremisti operanti in Libia, in Siria e in Iraq, perché appunto le caratteristiche di sostanza destinata a far sopportare meglio la fatica e quindi a dare più resistenza agli sforzi compiuti anche dai cosiddetti combattenti. Sì. Ma procuratore, si presume anche che il ricavato della vendita possa essere fonte di finanziamento per i gruppi. Ecco, esattamente questo, procuratore. C'è un sospetto di questo tipo, no? Che sia una fonte di finanziamento per quello che potremmo definire l'ex califfato, in realtà, anche perché le dimensioni territoriali sul campo si sono notevolmente ristretto, però potrebbe essere una fonte di finanziamento. Sì, non è per la verità su questo profilo qua, siccome la questione si svolge in territori non sottoposti ai controlli investigativi, alla giurisdizione nostra, non è stato accertato. Il procedimento riguardante quelle 37 milioni e mezzo di pastiglie, quindi un quantitativo superiore a quello di stamattina, è rimasto un procedimento contro ignoti. Procuratore, e quindi, sì, prego. Sì. No, non si è potuta verificare questa ipotesi investigativa che servisse anche a finanziare, come probabile, gruppi di terroristi oppure gruppi comunque di estremisti combattenti, insomma. Procuratore, nei mesi scorsi, anche in seguito a una serie di operazioni antiterrorismo che avete fatto e anche con collegamenti con la Libia, lei ha detto che il porto, in particolare il porto di Genova, ma forse potremmo estendere questa cosa, però rimaniamo sul porto di Genova perché poi è il suo territorio di competenza, può diventare un crocevia pericoloso da questo punto di vista. Sì, qua però bisogna distinguere, perché in questo caso si trattava effettivamente di merce in transito, occultata non perché vietata nei nostri porti o nel nostro territorio, ma nei porti di destinazione. Quindi sicuramente il porto di Genova è un porto importante, sì, nell'ambito del Mediterraneo, uno dei più importanti, per cui è normale che possa essere interessato anche da rotte di merce illecita di questo, sì, tipo. Il problema diverso è quello che può riguardare invece l'introduzione di merci nel nostro territorio, come è stato oggetto di accertamento ad esempio in materia di autoveicoli che provengono da quei paesi e poi sono destinati ad altri mercati europei, che sono veicoli di importazione con a volte contraffazione anche dei dati di telaio e i dati identificativi, perché in questi casi qua è rimasta in piedi un'ipotesi che possono essere anche quelli invece fonte di finanziamento per chi gestisce questo traffico qua. Mentre per quanto riguarda importazioni o esportazioni di armi, non abbiamo dati, diciamo, di una qualche grosso significato, ecco. La ringrazio, grazie a Francesco Cozzi, procuratore capo di Genova, per essere stato con noi. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo per parlare delle zone terremotate, perché dal 16 dicembre le persone che hanno subito danneggiamenti in seguito al terremoto dovranno tornare a pagare le tasse. Si sta sollevando una polemica, cioè la sospensione delle tasse finisce e però le macerie sono ancora là. Le casette, lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi, non sono ancora arrivate. Insomma, ce n'è da discutere, ne parleremo con un paio di sindaci. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli: conquistata la roccaforte ISIS di Deir Zor, in Siria Gioia Tauro sequestrato un carico di un oppioide, a gestire il traffico sarebbe l'ex califfato. Catalogna ha emesso il mandato di arresto per il presidente deposto Puigdemont, che si appella ai catalani: protestate senza violenza. A Torino si va verso la chiusura delle indagini per i fatti di Piazza San Carlo. Si parla di 20 avvisi ed ipotesi di omicidio colposo. Sicilia al voto nel fine settimana, ultimi colpi di campagna elettorale, riflettori puntati a livello nazionale sul dopo urne. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da La Trapp, le autentiche birre dei frati trappisti. Assapora il silenzio. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, il nostro giro d'Italia ci porta nuovamente nelle zone del terremoto. Oggi a questo è dedicata l'apertura del giornale, il titolo è un po' duro, il governo umilia i terremotati, pagate le tasse, indebitatevi. Che cosa succede? Succede che, come spesso accade quando ci sono i terremoti, viene attivata immediatamente una sospensione del pagamento delle tasse. Questa sospensione ha una durata più o meno lunga, ovviamente, a seconda della situazione. Fatto sta che a metà dicembre, come regalo di Natale, questa sospensione delle tasse finisce, secondo quanto è stato riferito anche da Paola De Micheli, che è l'attuale commissaria, quella che ha preso il posto dell'ex presidente della regione Emilia Romagna Errani. Si dice tra l'altro alle persone che hanno subito danni e che devono ovviamente pagare queste imposte, che eventualmente possono richiedere un prestito. C'è la possibilità di ottenere dei prestiti agevolati per pagare queste imposte. Devo dire la verità, A prescindere da tutto, ci suona come un film già visto, perché l'abbiamo già visto in altri terremoti. Cosa succederà adesso? Si solleverà un enorme polverone, le persone che si trovano nelle zone terremotate rimarranno in sospeso per qualche settimana finché non entrerà un emendamento nella manovra, e poi questa cosa la teniamo da parte, e se mi sbaglio mi smentirete, entrerà un emendamento in manovra che rinvierà di un altro anno e poi ritorneremo da capo un'altra volta, perché le cose in questo paese si fanno sempre all'ultimo minuto e senza ragionare un po' più a lungo termine. Comunque, torna da noi Stefano Petrucci, sindaco di Accumoli, che è uno dei comuni più colpiti dal sisma, per sapere se ne sa qualcosa di questa vicenda. Petrucci, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Vi è arrivata comunicazione a voi oppure no? No, non ancora. Io sono stato rassicurato dal commissario De Micheli che comunque la sospensione, diciamo, terminerà per coloro che non usufruiranno di questo finanziamento a tasso zero, perché comunque poi se ne farà carico lo Stato degli interessi su questo finanziamento, e coloro che usufruiranno di questa agevolazione qui potranno iniziare a pagare ratealmente dal 2020. A partire dal 2020, Okay. E comunque lo Stato deve avere certezza dell'entrata, perché comunque sono i redditi del 2015, stiamo parlando, perché poi per le zone urbane franche sappiamo bene che tutte le imprese, le imprese agricole e i liberi professionisti possono usufruire delle agevolazioni della zona urbana franca, che l'istanza scadeva il 6 novembre e dal decreto di ieri è stata prorogata al 20 di novembre. Sì, e quindi, diciamo, mi scusi questa... Petrucci, sì. La interrompo per dire questo. Quindi la situazione è un po' più complessa, no? Di come più chiara, perché io dalle dichiarazioni fatte anche sul Corriere della Sera. Mi scusi, oggi, ho usato l'espressione sbagliata, un po' più composita rispetto a quanto non appaia. Sì, ecco. Perché ieri a me è arrivata questa notizia. Io sono stato abbastanza polemico, oggi mi sono un po' ricreduto su quanto avevo dichiarato, perché comunque non è così come si era prospettato, ma ci sono queste agevolazioni delle zone urbane franche per i mancati redditi che si sono avuti dopo il sisma, e ci sarà anche il risarcimento del danno indiretto. E in più i redditi che erano quelli del 2015 e dei 8 mesi del 2016, c'è questa agevolazione nella rateizzazione che partirà dal 2020, basta usufruire di questo finanziamento. Quindi tu chiedi un prestito, lo Stato ti paga gli interessi e puoi rateizzare questo debito fiscale. Partire dal 2020. Aspetti un attimo con suo collega in linea. Aspetti un attimo con suo collega in linea. Emiliano Pazzaglini, sindaco di Visso. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno. Anche lei l'ha saputo dai giornali, come l'ha saputa questa storia dei tributi? Allora, ne sono venuto a conoscenza in due modi, sia per la lettera ricevuta che dai giornali. Il problema è che purtroppo in questa gestione, sia dell'emergenza che della ricostruzione, non si sta tenendo conto di quelle che dovrebbero essere le esigenze delle persone, che poi siano liberi professionisti, imprenditori, commercianti, o semplicemente utenti, conta poco. Quello che conta è che ci sono persone in estrema difficoltà, perché hanno perso casa, hanno perso l'attività, hanno perso ogni motivo di introito, però lo Stato dopo un anno di sospensione richiede appunto i tributi sospetti. Faccio solo un parallelo semplicissimo, un evento analogo a quello che si è verificato l'anno scorso, che era stato 3 secoli fa. Il grande terremoto è chiamato, nel 1702 e 1703 ci fu una sequenza sismica analoga all'attuale, sia per danni che per portata per territorio ed altro ancora, e in quel caso le tasse furono esentate, non sospese, per 10 anni, quindi è evidente che il peggioramento direi che è enorme. Poi per carità, gli alibi, le zone franche, le tante stupidaggini dette, e non riesco a qualificarle in maniera diversa, perché innanzitutto creare un cratere con 140 comuni quando qualcuno è distrutto e qualcuno è danneggiato più o meno gravemente, già secondo me è un'amenità. L'esperienza avrebbe dovuto insegnare che le fasce portano quelle che è l'ipotesi di ricostruzione migliore, che da tutti viene indicata come quella del Friuli. Lì c'erano tre fasce, quindi parificare tutto già è stato un errore clamoroso. Ma poi anche nell'applicazione concreta dei provvedimenti fasce come si fece nel 97, Pazzaglini, cioè... anche nel 97 lo ricordo perfettamente, perché ero sindaco anche all'epoca. Però porto l'esempio del Friuli per non parlare di me, perché altrimenti i miei due primi mandati li ho passati a gestire una ricostruzione che avrebbe avuto molto da insegnare, sia sul piano tecnico, perché zero morti e zero feriti significa che le cose erano state fatte bene, ma anche amministrativo, perché non c'erano stati condanni, e poi in ultimo economico, perché gestire con le imprese locali ha fatto ripartire l'economia, creando un volano che da piano Marshall funziona con le opere pubbliche. Scusi Pazzaglini, però quello che faceva notare Stefano Petrucci, il sindaco di Accumoli, dice comunque si rinizia a pagare dal 2020, si può rateizzare. Lei quello che dice è che in realtà bisognerebbe fare una sorta di sanatoria, perché parliamoci chiaro. Allora, i primi due terzi di un anno vengono impiegati per coprire i costi del lavoro, costi o tasse, quindi arrivare a fine agosto come abbiamo fatto noi per i liberi professionisti, i commercianti, per l'attività in generale, ha significato coprire i costi. Poi non hanno fatto più nulla, perché il mio, come Accumoli, come altri, è un comune distrutto, quindi che tasse devono pagare? Gliele facciamo rateizzare? Sì, per carità, quindi gli tagliamo le gambe nel momento in cui forse potrebbero iniziare a risollevarsi, e dico forse perché in questo terremoto mancano anche le soluzioni strutturali per far sì che chi è stato distrutto possa risollevarsi, perché è stata gestita poco e male l'emergenza. Mi sembra che sia più morbido. Petrucci, in 20 secondi, per favore. Ma io parlo più che altro dei redditi 2015, quelli dobbiamo comunque pagarli. Nel 2016 condivido quello che sta dicendo il collega Di Pisso. Sicuramente lì va un po' rivista la cosa. Allora, vi ringrazio, grazie a tutte e due, grazie a Stefano Petrucci, sindaco di Accumoli, Emiliano Pazzaglini, sindaco Di Pisso, per essere stati con noi. Traffico Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.